Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Attilio Befera, 67 anni, romano di nascita, abruzzese di adozioni, è il capo di Equitalia, la struttura più odiata dagli italiani, per molti in questo periodo di crisi addirittura un incubo notturno. Lui combatte contro l'evasione con tutti i mezzi, spot televisivi, retate a sorpresa, interviste e soprattutto lo spauracchio del redditometro, ma intanto mette a segno colpi importanti e recupera miliardi. Per molti è un uomo coraggioso, un vero gran commi dello Stato, per altri è solo artiglio. Ecco, dottor Befera, negli Stati Uniti l'agente dell'FBI che ha messo in galera per evasione fiscale Al Capone è un eroe praticamente. Qui da noi, se va bene, lei è artiglio, vampiro, può scegliere, non si è stufato un po'? Ma guardi, io lavoro per lo Stato, lavoro per cercare di far funzionare questa macchina e finché posso... E quindi regge l'urto, ma si è sentito sostenuto di più da chi? Ma ci sono stati dei momenti in cui ci siamo sentiti poco sostenuti. In questo momento ritengo che siamo... Va un po' meglio? Sì. Senta, però quest'estate perfino un politico di sinistra come Fassina ha detto: capisco l'esistenza di un'evasione di sopravvivenza. Ecco, si è sentito abbandonato o c'ha ragione Fassina? No, assolutamente no, ci sono vari tipi di evasione, noi cerchiamo di combatterli tutti, ovviamente la massima intensità sui grandi evasori, ma cerchiamo di fare una strategia diversificata. Ma quindi l'evasione di sopravvivenza può esistere? Penso di sì, ma non essendo io un evasore lo so. Senta, ma se la pressione fiscale fosse minore... Ci sarebbe meno evasione, secondo lei? Indubbiamente, perlomeno ci sarebbe meno evasione da carenza di liquidità. Cioè, è folle la pressione fiscale che c'è. Questo non sta a me giudicarlo. Però lo pensa un po'. Senta, resta il fatto che la sua struttura, Equitalia, è una delle più odiate degli italiani, l'abbiamo detto. Lei lo sa? È certo che lo sa. E che effetto le fa? Bisogna forse capire che in Italia bisogna pagare le imposte. D'altra parte, se non ci fosse Equitalia non le pagherebbe nessuno. Ha paura lei delle conseguenze di questo atteggiamento degli italiani? No, va gestita, certo. Lei vive scortato? Sì. Quindi un po' di paura ce l'ha. Ma vanno gestite queste cose. Senta, però... Se non ha tanta paura, lei prova a farla agli italiani con la sua strategia del terrorizziamoli. Ecco, ma funziona terrorizziamoli? No, guardi, noi non abbiamo la teoria la strategia del terrorizziamoli. Sembra. No, noi cerchiamo semplicemente di far pagare le imposte a chi le deve pagare. Ma è su l'esempio, la campagna degli spot in cui gli evasori sono parassiti, eccetera. La è di una società che abbiamo approvato, è uno spot. Insomma, che abbiamo approvato, lei. Credo che sia la verità. E funziona? Non so se funziona, ha avuto comunque successo. Il problema è che l'evasore sia un parassita della società, di tutti coloro che pagano le imposte, è un dato di fatto. Ecco, lei da 4-5 anni annuncia di aver recuperato tra gli 11 e i 13 miliardi di evasione. L'evasione stimata però è sempre la stessa, grosso modo, intorno ai 100 miliardi. Cos'è che non va allora? Se lei recupera e l'evasione è sempre quella, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Sì, a parte che vorrei un aggiornamento su quei 100 miliardi perché sono un po' datati, ma è chiaro che è una battaglia lunga. Cioè, e dura, è datata perché quanti sono? Mi pare che quei 110. Dati siano... No, non lo so, non lo so dire. Comunque qualcosa abbiamo recuperato senz'altro e se forse... abbattuta un po' la forbice fra reddito percepito e reddito dichiarato. Vabbè, ma insomma, allora cos'è che non va? Però non va, se è molto alta questa evasione. Noi siamo un popolo in cui l'evasione ancora fa parte di una cultura e bisogna cambiarla. Ma se lei fosse ministro cosa farebbe di diverso? Ma non credo che ci sia da fare qualcosa di diverso. Bisogna insegnare agli italiani, specialmente alle nuove generazioni, che evadere non è furbizia. È formazione. Senta, beh, intanto ministro più o meno lei lo è, perché è lì da... Quanti ministri si è fatto no, del no, tesoro? No, io non sono ministro, sono un esecutivo. Sono quanti ministri del tesoro ha servito, diciamo? 3 o 4. E chi è stato 2008. Il migliore? No, non faccio mai classifica. Vabbè, ma lei è stato nominato da Tremonti? Giulio Tremonti. E con lui si è trovato bene? Io mi sono trovato bene con tutti, basta che mi fanno lavorare e mi fanno lavorare. Molto diplomatico. Senta, Ma far paura è sufficiente per gestire il potere? Comunque un po' di paura voi la fate, la vostra strategia è anche un po' quella, l'ha detto anche lei qualche volta. No, noi vogliamo far paura a chi evade, non vogliamo far paura ai cittadini che invece pagano regolarmente le tasse. Senta, chi evade deve sapere che c'è qualcuno che li controlla. Che rischiano. Ma siamo un paese di evasori irrecuperabili, secondo lei? Siamo un bel paese di evasori, speriamo di recuperarlo piano piano. Senta, ma in ogni caso adesso la prima casa non potete più pignorarla, per lei è una sconfitta. No. Perché? Tutto ciò che è leggi dello Stato noi le rispettiamo tutte. Senta, comunque in campo immobiliare adesso avete messo a segno un bel colpo, sì. Avete scoperto 1,2 milioni di case fantasma con la quale, così dite, si recuperano subito 600 milioni di tasse evase. Va tutta ai comuni questa tassa? La maggior parte va all'IMU, una parte va allo Stato attraverso l'IMU. Quindi la maggioranza ai comuni. Ecco, ma è vero che con gli arretrati potreste arrivare fino a 2 miliardi di recuperi? Diciamo che sono delle presunzioni. Presunzioni. Entro quando, diciamo? No, il recupero della rendita catastale è immediato. Noi sì. Abbiamo... No, ma questi 2 miliardi entro quanto sarebbe possibile? Ci vorrà un paio d'anni. Senta, è stato un lavoro di 7 anni questo qua, sì. È stato un lavoro... Sì, molto importante. Ecco, di cui si aspettava un risultato così. È finito questo lavoro? Assolutamente no, assolutamente no. Noi continuiamo a fare le rilevazioni e a colpire tutte le unità immobiliari che non pagano. Ecco, senta, ma a proposito di case, a case lei come sta? Io ho una casa a Roma e una casa in Abruzzo. No, perché ho letto che ha fatto un bel affare con una casa comprata al 35% in meno del valore di mercato. Non è assolutamente vero. È una cattiveria. Io ho un immobile, una casa semipopolare, l'ho comprata con una vendita che è stata fatta a tutti i condomini, a tutti la stessa cifra, col 17% di sconto, purché comprassero tutto. Vabbè, e allora il minimo delle cattiverie che poteva aspettarsi. Sì, ma è un senta, continuo. Però qualche errore di metodo, di comportamento nei confronti degli italiani l'avete fatto. Ho letto di funzionari di Equitalia corrotti e arrestati. Allora, ha pensato che il suo lavoro poteva andare in fumo con questo? No, guardi, è un funzionario, un funzionario che a leggere gli atti sembrerebbe corrotto per cifre abbastanza ridicole. Ci tengo ancora a precisare. Peggio. Che le mele marce stanno dappertutto, stanno in agenzie di entrate, stanno in Equitalia, stanno in qualsiasi... ce n'era uno all'ultima cena, quindi... ce n'era anche uno. Senta, sì. Torniamo... Però non ha invalidato quella cena. Appunto, anzi, forse gli ha dato senso. Senta, torniamo agli evasori. Lei ha detto che i maggiori avversari nella lotta all'evasione non sono gli evasori, ma gli sprechi, la spesa pubblica inefficiente e i furti. Allora la sua, in qualche modo, è una strategia che fa paura, ma è inutile, se gli evasori sono altrove. Guardi, la strategia di recupero dell'evasione è importantissima, ma è altrettanto importante la lotta alla corruzione, all'inefficienza, agli sprechi, perché toglie senso, e in questo lei ha ragione, toglie senso al nostro lavoro. Ecco, ma la sensazione di combattere contro i mulini a vento ogni tanto ce l'ha? Ogni tanto sì. E si sente un po' solo in questa lotta? In qualche momento, come dicevo, ci siamo sentiti soli, adesso credo proprio adesso che non lo siamo. Adesso va bene. A proposito di non essere soli, cosa ha detto il presidente Letta nella battaglia ai paradisi fiscali? Il tempo dei capitali esportati illegalmente all'estero sta dunque finendo, è in corso una svolta storica nel mondo che dobbiamo cogliere finché vinca la legalità e l'Italia possa riappropriarsi di risorse che consentiranno, già a partire dal prossimo esercizio finanziario, di far scendere il deficit e centrare il nostro obiettivo principale, abbassare le tasse a vantaggio dei cittadini onesti. Parole o fatti concreti? No, sono fatti concreti, c'è un movimento internazionale cui l'Italia è protagonista, stiamo cercando di riportare a casa i quattrini che sono all'estero, quindi di... bloccare i paradisi fiscali. E cosa gli fa sperare che sono fatti concreti? Dalle segnalazioni, dai segnali che ci arrivano da coloro che vogliono riportare a casa i quattrini. Quindi insomma bisogna trattare un po' con questi evasori. Bisogna trattare senza sconti particolari, bisogna che paghino tutte le imposte che devono pagare, forse bisogna smussare qualche angolo. Un po' di trattativa. Parliamo di cose concrete, di sprechi. Ecco, lei cosa risponde a chi dice che gli 8.000 dipendenti di Equitalia, che costano 500 milioni più o meno di stipendi, sono uno spreco? Ma se poi la riscossione non la fa nessuno, chi paga le tasse spontaneamente? Solo i lavoratori dipendenti e pensionari, perché hanno il sostituto d'imposta. E quello, sono sempre loro che pagano. Senta, ma è vero che 2 anni fa il TAR del Lazio ha giudicato illegittime 376 posizioni dirigenziali su 1143, è così? Sì, c'è una questione aperta, stiamo cercando di risolvere. Adesso beh, in però Consiglio abbastanza... è stato. Ma abbastanza significativo. Non erano posizioni dirigenziali, ma erano reggenti di posizioni dirigenziali, perché non facciamo un concorso, purtroppo, per dirigenti da 15 anni. E perché non lo fate? È perché non ci autorizzano. Quindi assume chi vuole? No, no, non riusciamo ad assumere nessuno. Ah. Nominiamo provvisoriamente dei reggenti. Senta, ma lei, dottor Befera, quanto guadagna? Io guadagno come il primo presidente della Corte di Cassazione, cioè? 294.000 euro. Cioè, più di Obama? Non so quanto guadagna Obama. Un po' meno. Sì, vuol dire che guadagna poco lui, va bene. Sì. Ma lei si considera ricco? Assolutamente no. Ma chi sono i ricchi secondo il redditometro di Equitalia? No, guardi che i redditometri, che non è di Equitalia ma di Agenzia delle Entrate, sì, vabbè, certo, scusi. Non misura chi è ricco, misura quanto spendi rispetto a quanto dichiari. Che è una cosa completamente diversa. E i parametri di valutazione quali sono? Per capirli semplificamente. Le spese che sono state effettivamente sostenute da un cittadino. Quelle spese vengono misurate con quanto ha effettivamente dichiarato. Se è incoerente, ed è molto incoerente, chiediamo chiarimenti. Chiarimenti. Senta, ma il redditometro non è illegale? No. Perché? No. No, ma la legge non viola la legge sulla privacy? Assolutamente no. Abbiamo superato tutto. I controlli, ovviamente lo stiamo facendo in piena sintonia con il garante. Ecco, ma il garante vi ha dato via libera o no? Stiamo mettendo a punto le ultimissime particolarità. È per questo che lei ha detto quest'anno non riusciremo a fare i 35.000 certo. controlli previsti. Certo. Non è che sta facendo un po' marcia indietro? Assolutamente no. No. Senta, ma col suo terrore ha messo però in ginocchio la nautica, l'ha messo lei stesso al Salone di Genova. No, guardi che la nautica è stata messa in ginocchio da altre vicende. Noi abbiamo eliminato il vecchio redditometro che metteva in ginocchio la nautica perché vedeva la barca come elemento di ricchezza. Noi invece abbiamo detto gli elementi di ricchezza non ci interessano, ci interessa la spesa nella sua globalità. Ecco, e quindi rispetto alla nautica non c'è una marcia indietro? Lei assolutamente dice. No, per quanto ci riguarda. Poi le norme sono state modificate per quanto riguarda l'imposta sullo stazionamento, ma non è un fatto di agenzia. Senta, è vero che lei è un grande ammiratore di Cavour? Beh, diciamo che sono un ammiratore di Cavour. Ma perché? Che cos'è che... Da uomo delle entrate, che cos'è forte che... Forte senso dello Stato, capacità di avere una strategia e seguire quella strategia anche nei momenti di difficoltà. Poi, con tutti i limiti e gli errori che un essere umano comunque ha. Senta, lei ama la musica? Sì. Molto? Abbastanza. Fare passeggiate? Data l'età ne faccio un po' di meno, sì, le faccio. Ah, ma l'Abruzzo, insomma, il suo posto. Sì. No, mi raccontava prima questa cosa bellissima di come evadevano le tasse in Abruzzo. Ma questa è una storia degli anni 600, 500-600, nell'altipiano di Rocca Calascio, quindi di una zona bellissima dell'Abruzzo, c'erano queste case a pietra viva che venivano buttate giù quando si avvicinava l'esattore e ricostruite quando si allontanava. Questo perché all'epoca si pagava il focatico, che era l'imposta sul fuoco e quindi sulla famiglia. E quindi case mobili, insomma. Case mobili per evitare il pagamento, delle tasse. Siamo evasori da tanto tempo. Siamo evasori da sempre, insomma. Ecco, ma lei, prima di lasciare l'agenzia, qual è l'obiettivo che vorrebbe raggiungere? Ma guardi, l'obiettivo, al di là degli aspetti puramente di gettito, cioè l'obiettivo è quello di aver insegnato, aver inserito nella mente degli italiani che le imposte vanno pagate e che servono per due fini fondamentali, quello di pagare beni e servizi e quello ancora più importante di redistribuire il reddito. Ecco, ma sul piano della formazione voi cosa fate? Noi in concreto, a parte gli cerchiamo spot? Cerchiamo di insegnare questi concetti ai 1500 scuole di ogni genere, di ogni livello. E direi che siamo sulla strada buona, perché i giovani ci stanno seguendo su questo. Senta, lei è già in pensione, no? Credo. Sì. Ecco, ma quanto pensa di restare ancora all'Agenzia delle Entrate? Io scado a giugno del 2014. Ah, vabbè, allora c'è ancora a tempo. A breve. Senta, ma allora l'identikit del suo successore ce l'ha in testa oppure no? Ma il mio successore è deciso dal governo, su proposta del governo, con un decreto del Presidente della Repubblica. È chiaro che è un uomo che deve avere capacità di continuare questa opera di mediazione continua, di passi avanti continui, non tanto nella lotta all'evasione, che sì, dà 12-13 miliardi di gettito ogni anno, ma quanto nel cambiamento culturale, certo, quello che è importante. Insistere su quella linea. Ecco, le faccio un'ultima domanda. Lo sa che molti cittadini onesti che pagano sempre le tasse pensano che in Italia in realtà è facile evadere, ma spesso si fa di tutto per rendere difficile pagare. Delle volte si diventa anche evasori per la rabbia di non sapere come si fa a pagare. Allora, questo è un argomento che ovviamente mi colpisce in modo particolare, perché è vero, e stiamo lottando con la con norme, con burocrazia, eccetera, perché sia sempre più semplice il pagamento delle imposte. Io mi auguro che nella delega fiscale che sta al vaglio del Parlamento la semplificazione sia nei primi posti. Senta, un'ultimissima curiosità. Messi, il grande calciatore, hanno contestato tasse non pagate per 4 milioni. Lui ne ha versati 5. L'evasore ideale? Eh? Certo, magari fosse tutti così. Bene, grazie mille, grazie dottor Befera, auguri per il suo lavoro. Io ringrazio molto ancora il dottor Befera, sono le 9:25 e 10 secondi. Dopo la pubblicità torneremo naturalmente in diretta per commentare che cosa bolle in pentola, lo fa in Italia e in tutto il mondo, lo faremo con i nostri amici Pietrangelo Buttafuoco e Mario Sechi. Per aggiungere voi una notizia, una riflessione, una qualunque opinione nella nostra pentola, potete chiamarci all'800 24 00 24. Se invece volete mandare degli sms, il numero è il 349 238 6666. Mix 24. Siamo di nuovo qui a Mix 24. Mario, che cos'è questa canzone, scusa? Sono i Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, comincia la settimana, ci vuole una bella intro di chitarra elettrica. Un po' no? Di allegria. Allora siamo qui, lo ripeto, con Mario Sechi e Pietrangelo Buttafuoco, che saluto, chiamateci. Buongiorno. Se volete all'800 24 00 24, mandateci sms 349 238 6666. Adesso parliamo di che cosa bolle in pentola oggi in Italia e nel mondo. Sigla. Ecco, noi abbiamo fatto bollire il faccia a faccia con Befera. Che titolo fareste, Pietrangelo, sull'intervista? Mi faccio aiutare da Totò e metto insieme due film. Tartassati, virgola, arrangiatevi. Mario Sechi? Il Cavalier Servente. Il Cavalier Servente, perché Befera è un classico esempio raro di servitore dello Stato tutto ad un pezzo. Quindi il titolo del tuo giornale è Cavalier Servente. Befera, due punti, il Cavalier Servente. Ok. Senti, allora parliamo di cosa bolle in pentola. Ma dunque, oggi, purtroppo ci stiamo avvicinando e dobbiamo darne conto tutti i giorni allo shutdown del governo americano. Non c'è l'accordo tra i repubblicani e i democratici. E John Boehner, il leader dei repubblicani, ha detto che il partito deve stare in piedi e combattere sul bilancio federale. C'è tempo fino al 17 e poi è fallimento. Ma quindi non è uno scherzo, insomma. No, Obama è rimasto a casa, non è andato al vertice dell'ASEAN, cioè dei paesi asiatici, che sono quelli che crescono in questo momento e che guidano la crescita. E che guidano la crescita, e quindi questo è veramente il primo punto nell'agenda globale. Ecco, Pietrangelo, questa cosa dell'America. Dico che bisogna leggere Spengler, Il tramonto dell'Occidente, attualissimo, a maggior ragione quando il signor Obama che è stato salutato come la novità tra le novità, assomiglia sempre di più a Gorbaciov. O Nick Carter, forse, quello del fumetto. Ve lo ricordate? Sì, l'ultimo sì. Chiuda la porta e spenga la luce. Scendono le ombre della sera. Scendono le ombre della sera. Intanto, per parlare invece di luce, un pochino di luce, noi abbiamo tralasciato, sì. tralasciato nelle nostre, nella nostra pentola una bolla positiva. Cioè decreto cultura. Il decreto cultura. Al telefono abbiamo Simonetta Giordani, sottosegretario del MIBAC, con la delega per il turismo. Pronto? Dottoressa Giordani, buongiorno. Ecco, buongiorno, questo decreto cultura, perché dobbiamo essere così contenti? Sembra l'unica cosa che ha fatto il governo? Perché dopo 15 anni un governo mette la cultura al centro delle politiche di sviluppo. Cioè non si spendevano soldi prima, adesso sì? Adesso sì. Ecco, ma dove soprattutto? Su fondazioni musicali abbiamo 70, le fondazioni lirico-sinfoniche sono circa 75 milioni che sono stati stanziati, 15 per i musei. Ecco, ma quelle delle fondazioni, queste fondazioni musicali non sono dei mangiasoldi infiniti? Gli date soldi ancora oppure ci vuole un criterio diverso di gestione per avere quei soldi? Ci vogliono regole più severe e le fondazioni meritevoli, quelle che sono in pareggio di bilancio da 3 anni, avranno una quota aggiuntiva pari al 5% del FUS. Sì, e quell'altro fondo senza, cioè, anzi, quel fondo infinito di Pompei, cosa capita a Pompei? Quel fondo infinito, a Pompei esistevano già 105 milioni tra risorse europee e nazionali che però non venivano spese. L'idea è stata quella di mettere a Pompei, creando una grande unità, progetto Pompei, un manager pubblico che in modo snello e agile dovrà pensare a spendere questi soldi. Speriamo. E la stabilizzazione del tax credit cosa significa in 3 parole? Che per l'industria cinematografica verranno stanziati permanentemente e non più su base biennale o triennale come veniva fatto in passato, 110 milioni di euro di agevolazioni fiscali. Quindi incremento per il cinema e per la fiction. Anche per la fiction e l'audiovisivo, questa è la novità, prima era solo per il cinema, invece ne sono stati aggiunti 20 per l'audiovisivo e la fiction. Ecco, lei però c'ha la delega al turismo, e dentro questo decreto cultura del turismo si parla? Non si parla direttamente, anche se ci aspettiamo che gestire bene Pompei consentirà di utilizzare questo grande attrattore per avere più turisti in quell'area. E comunque dopo il valore cultura noi presenteremo a breve un pacchetto di misure dedicate al turismo. Ecco, grazie, abbiamo parlato, grazie mille, abbiamo parlato con Simonetta Giordani, sottosegretario del MIBAC con la delega al turismo. Allora Mario, andiamo avanti con le nostre bolle in pentola. Voglio deliziare Pietrangelo Buttafuoco dicendogli che il buon Bibi Netanyahu ha combinato un mezzo pasticcio, perché ha detto che in un'intervista che in Iran non si possono indossare i jeans. È stato sommerso dalle foto su Facebook e su Twitter dei giovani e vecchi iraniani che indossano tranquillamente il jeans e così via. E insomma, è la diplomazia prêt-à-porter, chiamatela come volete, ma ed è incredibile, perché nell'intervista c'erano un sacco di cose importanti, ma è passato questo ed è stato un diluvio. Queste sono sempre le tecniche della menzogna come arma di distruzione di massa, un po' come quando in Occidente si dice che in Iran i cristiani sono perseguitati e si dimentica un piccolo dettaglio, che il 25 dicembre per esempio è festa proprio perché è Natale e perché c'è una comunità cristiana che legittimamente in grande libertà professa la propria fede. Cioè la messa di Natale gliela lasciano fare. Altro che. Va bene, è già una cosa. Altro che. Ci sono anche un diluvio di fotografie con le vetrine addobbate per Natale, con tanto di alberi di Natale. Più presepi che alberi di Natale. Quindi l'ideale è essere cristiani in Iran. L'ideale è essere informati, conoscere le cose e non cadere nella trappola della menzogna e della propaganda. Questo è certamente vero e bisogna fare attenzione, non si fa mai abbastanza attenzione, e la responsabilità nostra dei media che sono conformisti troppo spesso è altissima. Mario, andiamo avanti con le nostre bolle. Ma dunque, intanto dobbiamo vedere che cosa dirà oggi il presidente Napolitano a Cracovia all'incontro dei capi di Stato Uniti per l'Europa, che comunque è una fase cruciale. Il governo ha appena passato uno scoglio importante, vediamo. C'è l'outlook economico dell'Europa, sempre per restare nel vecchio continente, dobbiamo capire come vanno le cose. Oggi si incontrano sindacati e governo per fare il punto sull'autunno caldo. Ecco, sì. A proposito, scusa se ti interrompo, ma a proposito di questo incontro abbiamo al telefono Raffaele Bonanni, che è segretario generale della CISL, che si sta preparando per l'incontro. Segretario, al telefono? Sì, buongiorno. Ah, buongiorno, grazie di essere con noi. Volevo chiederle, lei cosa si aspetta da questo incontro? Solite parole come siete abituati ad avere quando andate in questi incontri col governo, oppure oggi comincia una nuova fase, come dice Letta? Con Letta abbiamo avuto più incontri, come potrei dire, semi-formali. Questo incontro deve aprire la strada a una discussione trasparente e definitiva che raggiunga l'obiettivo che noi perseguiamo come sindacato da diverso tempo, e cioè una prima inversione di rotta sulle tasse. Cioè più soldi nelle tasche dei lavoratori, diciamo, per dirla semplice. Devono tornare nelle tasche dei lavoratori una parte delle troppe tasse che pagano, che hanno indebolito le loro famiglie, ma ha indebolito anche la famiglia Italia, perché i consumi sono ridotti al lumicino e nessuno compra, e quindi le aziende, essendo noi un paese manufatturiero, riducono il personale. È un circolo vizioso che distrugge, stringe al collo la nostra realtà. Ecco, certo. Insomma, vi aspettate un inizio di questo percorso vero del meno spese e meno tasse? Noi chiediamo questo, lo abbiamo chiesto con Combindustria, noi di CGIL, CGIL, abbiamo detto benissimo, l'evasione fiscale e la riduzione notevole di spesa pubblica nelle realtà di inefficienze e anche di ruberie può senz'altro permetterci di avere un taglio di tasse nelle buste paghe, ma anche un dimezzamento, io chiedo, di tasse per chi investe e per chi reinveste gli utili che fa. Noi abbiamo bisogno di aziende, insomma in due parole, investono. In due parole, questa pressione fiscale che è arrivata veramente a limiti di insopportabilità, lei pensa che siamo al momento zero della ripartenza verso l'inversione della pressione fiscale? Ma secondo me per più ragioni. Noi siamo attenti a questo. Protestiamo, abbiamo fatto una proposta, sindacati e imprese, mai avvenuto fino ad ora, proprio per dare il segno della misura che si è raggiunta, ma d'altronde il governo che fa non riuscirà a dare nessun sostegno alla ripresa se non affronta il problema delle tasse, perché la questione delle tasse, certo, è diventata appunto la realtà che stringe al collo l'economia. Vabbè, quindi o fa questo o affonda, ecco, o affonda il governo. Ecco, quindi noi speriamo che questa sera, da questo incontro, qualche segno positivo concreto esca. In una parola, lei qual è il segno concreto, ma proprio in una battuta? Cosa si aspetta che dica Letta stasera? Non vorrei fare, faremo, no, che cosa si aspetta che capiti? Allora, metterò nella legge della stabilità, metterò dei pezzi che riguardano appunto la riduzione di tasse sul lavoro e soprattutto su quella parte che è rivolta alla produttività, metterò nel dispositivo appunto del governo la possibilità di dimezzare le tasse per chi investe o reinveste gli utili. Allora, se non si dimezzano le tasse a chi reinveste gli utili, i sindacati rompono. È così? Continueremo la nostra protesta e continueremo a discutere con la gente, perché ci sono comportamenti inammissibili da parte dei governi. Ancora siamo nella trattativa. Rompere sarà un momento successivo se non capita questo. Grazie, tanti auguri per il vostro incontro. Grazie, buongiorno. Grazie. Mario? Possiamo andare avanti con le nostre bolle in pentola? Sì, direi di sì, anche perché mi pare che non ci sarà un nulla di fatto dall'incontro con i sindacati, se queste sono le premesse da entrambe le parti. No, più interessante secondo me... Scusa, Pietrangelo, secondo te che sensazione hai avuto? Anch'io. Si chiacchiera. Anch'io, sì, sì. Anche perché il primo giro di anche chiacchiere. Anche perché il vero scoglio sarà proprio questo, quello di cercare di cambiare il passo, di smetterla anche con una demagogia facile sul lavoro. Basti ricordare che giusto ieri da Fabio Fazio, un rappresentante del Movimento 5 Stelle, ha rilanciato l'idea del reddito di cittadinanza, il reddito minimo garantito, che è stata una delle più grandi sciagure che si siano abbattute proprio sul mercato del lavoro, alimentando il nero e annientando definitivamente quelle che erano le prospettive di crescita delle realtà, a maggior ragione nel sud. Mario, sei d'accordo con Buttafuoco? Sì. Sì, alla fine purtroppo questa è la situazione. Il governo è appena ripartito, i soldi sono pochissimi, poi cioè il reddito di cittadinanza come lo finanzi? Ecco, io intanto scusa, ricordo il nostro numero, chiamateci se volete intervenire su questi temi, chiamateci all'800 24 00 24, invece se volete mandare degli SMS il numero è 349 238 6666. Dopo la pubblicità avremo le vostre telefonate che entrano nella trasmissione su questi temi, perché penso che valga la pena. Ecco Mario, vai, abbiamo ancora due minuti per, sì, prima di arrivare in pubblicità. Abbiamo un paio di minuti. Secondo me ci sono cose interessanti nei mercati dei vari settori industriali. Per esempio, noi abbiamo Alitalia che non sappiamo che fine fa, però Japan Airlines ha ordinato 31 Airbus A350 per la modica cifra di 9,5 miliardi di dollari. Quindi quello è un settore in realtà dove i giganti si muovono, e come, il problema è che noi facciamo i nani. Una cosa di costume che però è anche di consumo: c'era una fantastica pagina intera stamattina sul Financial Times dedicata ai millennials e ai baby boomers, è riferita all'acquisto di automobili e per converso all'uso della bicicletta. Ebbene, i giovani che sono nati dagli anni 80 ai 2000, diciamo, usano molto la bicicletta rispetto ai baby boomers. Questo è interessante perché cambierà il mondo dei consumi. La macchina non è più lo status symbol di prima. E quindi? E quindi, sai, per chi produce automobili ne deriva un cambiamento di tutte le strategie di marketing. Se guardiamo attentamente i segmenti di automobili per i giovani, tu ti accorgerai che vi è un interesse cospicuo sul fatto che sono, per esempio, connessi, che hanno il touchscreen, che hanno tutti gli optional, che sono carine da vedere e facili da usare, parcheggiare, cioè è molto interessante quello che sta accadendo in quel mondo. Ecco. Arriveremo all'iCar, perché sì, certo, la Apple sicuramente si inventerà. Ma non ci sono dubbi. Un'automobile adatta. Prima ancora che arrivi il grande ratantata dall'India con quelle sue meravigliose automobiline da 500 butta euro. Fuoco, scherza, butta fuoco, scherza, ma non sa che prima si siederà su un'auto di Google e non dovrà neanche guidarla, intanto, perché ci sarà il pilota automatico. Intanto l'auto di Google, vediamo come funziona con la viabilità che ci dà la situazione sulle nostre strade. Mix 24. Due note, il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga, la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furor di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Pietrangelo, sì? E questa canzone perché? La prossima la metterò io. Perché con Paolo Conte c'è un auspicio che è quello di creatività, di fantasia, di ritmo, di velocità, ma allo stesso tempo quella sensazione di essere finalmente contemporanei al proprio tempo. E quindi è una bella idea dell'Italia. Certo. Ad inizio settimana può funzionare. Perfetto, per il lunedì siamo a posto, rieccoci qua a Mix 24. appunto, li oramai ho imparato a riconoscerli con i miei compagni d'avventura, Pietrangelo Buttafuoco, Mario Secchi. Abbiamo sentito il faccia a faccia con Befera e poi gli interventi di Bonanni e del sottosegretario Giordani. Al MIBAC ci sono delle telefonate, una telefonata di Gianfranco da Trani. Ecco, signor Gianfranco, è in linea? Grazie per lo spazio che mi consentite. Io grazie a lei. Volevo agganciarmi all'intervento del dottor Befera dell'Agenzia delle Entrate per prendere uno spunto e dare uno spunto a lei e ai suoi ospiti proprio per darmi una risposta. Io sono un commerciante artigiano e chiaramente con tutte le difficoltà che affronto anche difficoltà fiscali, ma le voglio fare un piccolo esempio. Nel momento in cui io emetto una fattura e questa non mi viene pagata, ho tre problemi. Uno, un mancato incasso e devo subito ricorrere ad un legale, perciò non solo non ho già i miei soldi che mi spettavano per il lavoro prestato, ma devo andare da un legale ad affrontare una causa che il bene che mi vada dura anni, devo pagare altre spese che non mi sarebbero dovute spettare, ma invece devo affrontare. Naturalmente. E la fregatura maggiore, mi consente il termine, è quella che io a fine anno, siccome noi stanziamo le somme sul documento e non per cassa, per esprimerci in termini tecnici, sì, dobbiamo versare l'IVA allo Stato, perché siamo sostituti d'imposta dello Stato, lei mi insegna, non solo, dobbiamo dichiarare anche che quella somma, fin quando non è riscossa, è stato un guadagno. Ma infatti il pagamento del dovuto alle imprese è uno dei temi che sta sul tavolo, in modo drammatico, sul tavolo del governo. La ringrazio molto per il suo intervento. Mario, vuoi dire qualcosa al nostro che è talmente reale che non c'è bisogno di commentarlo. Abbiamo un'altra telefonata di Ciro. Ciro ci chiama da Napoli. Pronto Ciro? Sì, pronto. Buongiorno. Grazie per l'opportunità che mi date. Io sono un artigiano e sto nel settore auto e vi lascio immaginare le difficoltà del caso per quanto. Beh, certo, un settore molto tartassato. Il contatore precedente ha illustrato più o meno quella che la mia. Immagino che lei abbia dei problemi analoghi in qualche modo. Esatto, io e in più però adesso ritengo di essere una persona corretta e sono circa 2 anni che non riesco più a far fronte alle spese praticamente di tasse e tutto quanto, perché ho dovuto fare una scelta tra mandare avanti la famiglia e pagare le tasse. Fermo restando che comunque. E lei cosa ha scelto? Cosa ha scelto di fare? Io sto mandando avanti la famiglia. Va bene, quindi le tasse possono aspettare nel suo caso? No, possono aspettare relativamente perché ho fatto un rateizzo con Equitalia, con la differenza che però i soldi che io avrei dovuto incassare praticamente per il lavoro effettuato non li ha incassati. Non li avrò, ma non li avrò è certo, perché l'azienda adesso va rimessa in liquidazione, cioè non avrò nemmeno un centesimo, ormai ci ho messo una croce sopra. Sentaci. La differenza è che all'Equitalia vado a pagare le tasse con il 30% di aumento. Certo, c'è Mario Secchi che vuol dirle una cosa. Mario. No, io immagino che sarebbe auspicabile in questi casi un provvedimento sulla recessione, perché qua il problema che ha evidenziato il signore al telefono è di incassi, cioè c'è un problema di cassa, cioè, lavoro fatto. Nelle piccole, medie e anche grandi aziende italiane, enorme. In più a questo bisogna aggiungere il fatto che le banche non prestano più soldi. Cioè, io penso che lui abbia questo problema anche, non è così? Certamente. Sì, a parte il problema di incassi, il problema è che ormai il lavoro cioè praticamente è nullo, non c'è più richiesta per quanto riguarda il settore auto, quindi io mi trovo senza lavoro e senza soldi praticamente, però con un rateizzo sulle spalle con il 30% di aumento. Grazie. Poi stamattina sentir dire al dottor Befera che lui con 298.000 euro all'anno non si ritiene ricco e io che purtroppo non ho vergogna, mangio al giorno a terra a casa mia, e cioè come mi devo sentire? Beh certo, è un problema vero ed è un problema che gireremo a Befera per sapere che cosa vuol dire essere ricchi o no, abbiamo provato a chiedergli. Intanto la ringraziamo molto e sentiamo Paolo da Siena. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, grazie a lei. La situazione è questa: io sono andato in pensione nel 2004 e prendo circa 25.000 euro all'anno di pensione, però ho acceso anche un mutuo della stessa esatta cifra L'Agenzia delle Entrate me l'ha moltiplicato per 4, addirittura il governo allora permetteva, la legge ora è cambiata, che chi ha un mutuo di una certa cifra può essere a insindacabile giudizio di chissà quale persona intelligente, può essere moltiplicato fino a 5, senza considerare poi tutte le altre spese. Certo. Questa è una cosa assurda. Oggi come oggi, forse nel paniere per determinare il giro d'affari di una partita IVA c'è ancora il mutuo, però non è moltiplicabile per niente. Forse avremmo dovuto tenere Befera qui in diretta con noi per rispondere alle domande, perché effettivamente le questioni che voi ponete sono questioni concrete, reali, e le risposte le possono solo dare con precisione quelli che hanno la responsabilità di gestire questa discussione. Io la ringrazio molto. Volevi dire una cosa, sì, Pietrangelo? Faccio finta di fare una telefonata anch'io, sì. Però lascio Befera e mi ricollego a quello che diceva prima Simonetta Giordani sul decreto cultura. Vorrei ricordare un fatto: la morte del teatro in Italia, causata non solo dall'indifferenza del pubblico, ma soprattutto da un meccanismo perverso, e cioè gli enti pubblici affidano in ritardo i contributi. I debiti divorano e sbranano i teatri, allo stesso modo l'Agenzia dell'Entrata richiede che vengano versati i pagamenti, e poi in tutto questo l'accanimento degli istituti di credito, delle banche che attraverso i mutui stanno strozzando i teatri, insomma, che sono preziosi in tutta Italia. È proprio il segno che con la cultura non si può mangiare, diciamo, in un certo senso, cioè questa attività di violenza sul mondo della cultura, il teatro poi in particolare, davvero sta molto male. Ecco, prima di lasciarvi, tra poco ci sarà il telegiornale, però vi voglio dire che noi subito dopo avremo la storia, oggi vi raccontiamo la storia del dirottamento dell'Achille Lauro. Il 7 ottobre dell'85, 28 anni fa, 4 terroristi prendevano in ostaggio la nave italiana Achille Lauro. È la storia di un'affare internazionale che ha visto contrapposti l'Italia e gli Stati Uniti. Tra poco, dopo il telegiornale. Mix 24, la storia. Comandante, ci sono i terroristi a bordo. Continua il dramma della nave italiana Achille Lauro sequestrata. La prima cosa che ho visto è stato un lenzuolo bianco macchiato di sangue. A me hanno detto, adesso abbiamo ammazzato uno. Oggi a Mix 24 vi raccontiamo la storia del dirottamento dell'Achille Lauro, la nave da crociera italiana presa d'assalto nel 1985 da 4 terroristi palestinesi. Assalto che sfocerà nella crisi di Sigonella, portando l'Italia e gli Stati Uniti sull'orlo della rottura diplomatica e dello scontro a fuoco. Ma intanto, qual era la situazione politica in Italia in quell'ottobre dell'85? Nell'ottobre 1985 Bettino Craxi è a Palazzo Chigi da 2 anni. Al Quirinale da pochi mesi è stato eletto Francesco Cossiga. Ministro degli Esteri è Giulio Andreotti, da sempre favorevoli al dialogo con i paesi arabi. Alla difesa il repubblicano Giovanni Spadolini, che è invece decisamente filo atlantico e vicino agli Stati Uniti di Ronald Reagan. Quanto alla Casa Bianca, l'alleato più fedele è come sempre Israele, con cui condivide l'ostilità per l'OLP e la linea di fermezza contro il terrorismo. In questo quadro politico si inserisce la drammatica vicenda dell'Achille Lauro. Sono le 13 del 7 ottobre dell'85. La nave da crociera Achille Lauro è in navigazione nelle acque territoriali egiziane. 24.000 tonnellate di stazza, 200 metri di lunghezza. Presenti a bordo ci sono 320 uomini dell'equipaggio e 107 passeggeri. Dopo l'Egitto, la prossima meta della crociera è in Israele, ma in Israele l'Achille Lauro non arriverà mai. Così Gerardo De Rosa, comandante dell'Achille Lauro. All'improvviso sento prima bussare e poi aprire subito la porta. Era il comandante in seconda che mi dice: comandante, ci sono i terroristi a bordo. Alle 13.07 quattro terroristi irrompono nella sala da pranzo dell'Achille Lauro e sparano in aria. Una pallottola colpisce un membro dell'equipaggio ad una gamba. Nel giro di pochi minuti l'Achille Lauro è nelle mani dei terroristi, pochi ma armati fino ai denti. Appena spalancai la porta della sala nautica mi sono ritrovato questo Mahmoud, uno di questi ragazzi con il suo fucile che me lo puntò alla gola e disse: noi siamo, insomma, si dichiarò che cosa erano e che cosa volevano. La prima cosa che ho visto è stato un lenzuolo bianco macchiato di sangue e sotto il quale c'era uno dei nostri marinai ferito alle gambe. Dopodiché ho visto un misto tra passeggeri vestiti, alcuni che indossavano ancora il costume perché erano stati trascinati dalla piscina. Quindi lì c'è stata una prima coscienza di quello che stava capitando. Ma perché i terroristi hanno sequestrato proprio l'Achille Lauro? Come sono saliti a bordo? E soprattutto, chi sono i terroristi che hanno sequestrato la nave? Sono soltanto quattro uomini, di cui un minorenne, ma tengono in scacco il mondo intero. Imbarcati a Genova con passaporti falsi, si definiscono combattenti e membri dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che riunisce una galassia di organizzazioni con un obiettivo comune: la distruzione dello Stato di Israele. Dal 1969 Yasser Arafat ne è il leader indiscusso. Ma qual era l'obiettivo del comando palestinese? Pino, buongiorno, giornalista. L'obiettivo primario del comando palestinese era di fare un attentato nel porto israeliano di Ashdod. L'operazione andò in una certa misura, saltò, perché alcuni membri del comando erano stati sorpresi dall'equipaggio italiano che appunto mi mettevano a posto le armi e quindi, sentitisi scoperti, presero d'assalto la nave e quindi la dirottarono. Sull'Achille Lauro l'incubo è appena iniziato, sono le 15 circa, dal dirottamento sono passate due ore. Il marconista della nave riesce a lanciare l'SOS che viene captato molto lontano a Göteborg in Svezia. My day, Achille Lauro, my day. Una stazione della radio costiera svedese capta un messaggio drammatico. La voce è quella del marconista della nave. Qui l'Achille Lauro, siamo stati dirottati da un numero imprecisato di palestinesi. Chiedono la liberazione di 50 loro compagni detenuti in Israele. Buonasera, apriamo il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa: il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo al largo delle coste egiziane. La notizia a questo punto è ufficiale: l'Achille Lauro è stata dirottata. Da subito il governo italiano si muove su due fronti. Da una parte il ministro della difesa Spadolini, che è su posizioni filoamericane, riunisce subito i vertici militari. Dall'altra, Andreotti, ministro degli esteri, su posizione tradizionalmente più vicina al mondo arabo, attiva tutti i suoi canali diplomatici. Lunedì 7 ottobre, ore 20:10. Alla Farnesina si insedia l'unità di crisi. Intanto Spadolini, d'intesa con il presidente della Repubblica Cossiga, incarica i militari di mettere a punto un piano per liberare la nave con la forza. Ma l'operazione si presenta da subito difficile e rischiosa. Così Francesco Cossiga. Avevamo a disposizione, io abito a Castelporziano, una potente radioricevente del servizio postale che mi diede la possibilità di ascoltare le comunicazioni del radio del comandante della nave. Andreotti si mette in contatto con Boutros Ghali, ministro di Stato egiziano, che gli assicura la totale collaborazione del Cairo. Quindi chiama Arafat, che prende le distanze dai terroristi. Con un comunicato, l'OLP precisa: noi non c'entriamo niente, vogliamo aiutare l'Italia in questa crisi. Alle 21.30 il presidente del Consiglio, Bettino Craxi, arriva a Palazzo Chigi e si assicura la copertura politica della Tunisia, grazie alla sua amicizia personale col primo ministro. Mentre il governo italiano studia la via diplomatica, gli Stati Uniti hanno già deciso: nessuna trattativa con i terroristi. Mix 24. la storia. Rieccoci qui a Radio 24 con la storia di un incredibile intrigo internazionale, il sequestro di una nave da crociera italiana, l'Achille Lauro, da parte di quattro terroristi. Martedì 8 ottobre, ore 24. Gli incursori della Marina Militare vengono trasferiti sulla nave ammiraglia Vittorio Veneto. Da Livorno decollano quattro elicotteri da trasporto con a bordo 60 paracadutisti. Dalla Sicilia decollano i ricognitori dell'aeronautica militare per individuare la posizione esatta dell'Achille Lauro, nome in codice dell'operazione Margherita. Ore 1. A Palazzo Chigi si riuniscono Craxi, Andreotti e Spadolini. Il ministro della difesa illustra il dispiegamento di forze ed espone il piano di intervento militare. Andreotti, da parte sua, chiede moderazione. Ore 3 del mattino. Yasser Arafat telefona a Bettino Craxi. Ribadisce che l'OLP è estranea al dirottamento e lo informa che due suoi emissari sono in viaggio per il Cairo per affiancare il governo egiziano nella trattativa. Uno dei due è Abu Abbas, leader del Fronte per la Liberazione della Palestina, una fazione dell'OLP di cui farebbero parte i terroristi, anche se in un gruppo dissidente. E una delle cose che poi molti non conoscono, che chi suggerì di rivolgersi ad Arafat furono gli americani. Dissero: ma sentite un momento Arafat, cosa che fu fatta, e Arafat ci dette la sua disponibilità, e questo suo emissario sembrò un ricercatore di soluzioni. Dunque, l'avete sentito, lo dice con chiarezza Andreotti, sono stati gli stessi americani a suggerire al governo italiano di attivare il canale diplomatico dell'OLP di Arafat. E Arafat propone Abu Abbas come mediatore. Ma chi è Abu Abbas? Nemer Ahmad, rappresentante dell'OLP a Roma. Abu Abbas il cuore di un bambino, veramente una persona molto semplice. Ma su Abu Abbas gravano subito molte ombre. Proprio su di lui, su questo mediatore proposto da Arafat, si concentra l'attenzione del Mossad, il servizio segreto israeliano, e degli altri servizi segreti americani. Nel frattempo, l'Achille Lauro viene individuata dai ricognitori italiani e sembra diretta verso le coste siriane. E infatti i dirottatori prendono contatto con le autorità del porto di Tartus, in Siria. Martedì 8 ottobre, ore 11 circa. Da bordo della Achille Lauro, i terroristi contattano le autorità siriane. Ribadiscono che vogliono la liberazione dei 50 palestinesi detenuti in Israele e chiedono di negoziare con la Croce Rossa Internazionale e con gli ambasciatori di Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna e Germania Federale. Se non saranno accolte le loro richieste, faranno esplodere la nave. Loro avevano chiesto di poter attraccare in Siria. Io telefonai personalmente al presidente Assad, che era in visita in Cecoslovacchia, e gli esposi la situazione. Lui disse: guarda, noi preferiremo rimanere fuori da vicende di questo tipo, però se è utile noi diamo questo permesso. L'Achille Lauro, insomma, attende il permesso di attraccare in Siria, ma Damasco, per accogliere la nave, vuole prima la garanzia da Roma e da Washington della loro disponibilità ad avviare la trattativa con i dirottatori. Ma l'ambasciatore americano in Italia, Max Raab, ribadisce: l'America non tratta con i terroristi. D'altra parte, i palestinesi da liberare sono detenuti in Israele e anche Israele rifiuta ogni scambio. Craxi non ha scelta. Deve chiedere a Damasco di non autorizzare l'attracco. E sull'Achille Lauro si scatena la furia dei terroristi. Così il racconto di quei momenti drammatici di terrore fatto da Aldo Accardi, commissario di bordo. Immediatamente incominciarono a cercare di ottenere i passaporti dei passeggeri oppure le varie nazionalità per distinguerli. Quindi dopo molta fatica furono distinti alcuni americani, tra cui anche Klinghoffer, che stava su una sedia a rotella. E poi ci stavano le ballerine nostre che erano inglesi e ancora qualche prese c'era pure. Leon Klinghoffer, 69 anni, americano, ebreo, è sulla Achille Lauro per festeggiare con la moglie il loro anniversario di matrimonio. È lui, un disabile sulla sedia a rotelle, la vittima scelta dai terroristi palestinesi. Klinghoffer viene portato sul ponte e ucciso con un colpo di pistola al petto e uno alla fronte. Poi, a due membri dell'equipaggio, viene ordinato di gettare in mare il suo cadavere. La morte l'ho appresa mentre stavo sul ponte, che Mahmud, sempre questo, il solito Mahmud, mi chiacchierava, si chiacchierava e avevo sentito dei colpi. Dopo alcuni minuti è arrivato Molchi con il passaporto di questo passeggero e mi ha detto: se non ci rispondono e si fanno sentire, noi ogni tre minuti ammazziamo un passeggero. Un morto ogni tre minuti. Questa era la minaccia dei terroristi palestinesi saliti a bordo dell'Achille Lauro e che ricattano gli israeliani e il mondo intero. Improvvisamente però i terroristi cambiano strategia, ordinano al comandante De Rosa di fare rotta di nuovo verso l'Egitto e non uccidono più nessun passeggero. Ma che cosa è successo? Secondo il Mossad, il servizio segreto israeliano sarebbe entrato in scena Abu Labash, il mediatore scelto proprio da Yasser Arafat, che avrebbe ordinato via radio ai dirottatori di fare rotta verso l'Egitto e di non toccare più nessun prigioniero. Martedì 8 ottobre, pomeriggio. Un radio amatore libanese dichiara di aver captato una comunicazione tra la Achille Lauro e le autorità siriane, in cui i terroristi annunciano di aver ucciso Klinghoffer. In Italia la notizia non trova nessuna conferma. Si pensò prima ad un'azione di forza e la volevano fare sugli americani, erano disposti a farli sugli americani e con i loro SEAL. E lì ci fu un punto, diciamo, d'orgoglio. Gli italiani dissero: se l'operazione deve essere fatta, vi debbono partecipare anche gli italiani con Subin, perché si tratta sempre di una nave italiana. Fu scartata l'ipotesi perché dissero gli organi tecnici che ci sarebbe stato comunque spargimento di sangue, anche molto probabilmente tra i civili che erano sulla nave. Insomma. Per il governo italiano la crisi va risolta evitando lo spargimento di sangue, dunque non resta che l'iniziativa diplomatica. Vincenzo Migliuolo, ambasciatore italiano in Egitto, riceve il mandato di aprire un negoziato con i terroristi. Con lui anche i due rappresentanti dell'OLP, Ani Alhassan e Abu Labash, i mediatori inviati da Arafat. Saranno loro a trattare con i dirottatori. Mercoledì 9 ottobre, Porto Said, Egitto, ore 9. L'Achille Lauro getta l'ancora a 15 miglia al largo del porto. Il Mossad israeliano intercetta una conversazione tra Abu Labash e i terroristi a bordo. L'uomo, che i direttatori chiamano comandante, intima la resa e promette un salvacondotto. Gli americani si dicono subito contrari. L'Italia accetta, ma pone una condizione: che a bordo non siano stati compiuti atti di violenza perseguibili in base al codice penale italiano. Per questo motivo il governo chiede un contatto con Gerardo De Rosa, il comandante dell'Achille Lauro. De Rosa conferma: i passeggeri stanno tutti bene. Io ero sotto la minaccia delle armi, ma non una minaccia così, una minaccia che di persone che io già sapevo, io lo sapevo, che ormai lo sapevo in quel momento, che avevano già ucciso. Ho pensato che era meglio, come si dice, ponti d'oro al nemico che fugge, cioè bisognava agevolare la loro partenza dalla nave. Per il comandante De Rosa la priorità è quella di liberarsi dei dirottatori e mente su quanto è avvenuto al passeggero americano Klinghoffer. A questo punto il governo italiano autorizza l'ambasciatore Migliuolo a firmare il salvacondotto per i terroristi. Ma davvero il governo di Roma non sapeva nulla della morte di Klinghoffer? Paolo Guzzanti, giornalista. Lì mentirono tutti. L'ambasciatore Migliuolo confessò, anzi con un'aria pure compiaciuta, e disse: avimmo fatto l'inghippo, è chiaro, no? L'inghippo, cioè l'imbroglio, abbiamo fatto l'imbroglio per gli americani dal muretto, non so come si chiama, il posto dove Klinghoffer era stato messo con la testa in giù, ucciso con una raffica di mitra, e poi il suo corpo era stato lasciato scolare tutto il suo sangue. C'era questa enorme bava di sangue che scendeva giù lungo tutto il fianco della nave fino alla linea di galleggiamento. Cornelio Brandini, assistente di Bettino Craxi. Assolutamente no. Craxi non sapeva che Klinghoffer fosse già stato ucciso. Non lo poteva sapere, perché non c'erano quelle notizie. Da noi non apparivano quelle notizie. Pino Buongiorno, giornalista. Craxi, che era in quel momento a pranzo in un ristorante sotto l'hotel Raphael, dove alloggiava a Roma, aveva ordinato un pranzo abbastanza leggero, ma poi passa a mangiare i cannelloni proprio perché si sentiva rinfrancato dopo tanti giorni di tensione. Si sentiva rinfrancato e ha detto: mangiamo questi cannelloni di questo ristorante, cosa che non faceva quasi mai, soprattutto a pranzo. E quel pranzo gli andò un po' storto, perché subito dopo, qualche ora, si venne a sapere che era stato ucciso appunto l'ebreo americano Klinghoffer. Cosa che, se avessimo saputo che ci fosse un omicidio, non per il fatto che fosse un ebreo, chiunque fosse, italiano o non italiano, noi non l'avremmo fatto, perché era veramente allora un favoreggiamento nei confronti dei delinquenti. Alle 4 del mattino, corrispondenti alle 3 del mattino ora italiana, dopo una lunghissima e estenuante attesa, l'Achille Lauro sta entrando in questo momento nel porto. Il Cairo, ore 12, il presidente egiziano Mubarak convoca una conferenza stampa e afferma che i 4 terroristi palestinesi hanno lasciato l'Egitto. Mubarak mente. I servizi segreti americani infatti controllano il suo telefono e sanno che i terroristi non sono ancora partiti, ma che di lì a poco si imbarcheranno su un Boeing per Tunisi. Per la Casa Bianca non c'è più tempo da perdere. Ronald Reagan dà ordine di intercettare l'aereo e condurlo in una base americana. Al-Masa, Egitto, ore 21:15. Il Boeing 737 della Egypt Air decolla dalla base aerea egiziana. Sull'aereo i 4 dirottatori, i 2 emissari dell'OLP, Ani El Hassan e Abul Abbas, e altri 8 egiziani. La destinazione è Tunisi, sede dell'OLP. Ma il governo tunisino, su richiesta americana, nega il permesso all'atterraggio. Il Boeing allora fa rotta su Atene, ma anche la Grecia nega il permesso. Da Washington, in quelle ore, Ronald Reagan manda un messaggio preciso ai terroristi. A message to terrorists everywhere. A message you can run, but you can't hide. Potete scappare, ma non vi potete nascondere. Alle 22:30 circa, sui cieli del Mediterraneo, 2 caccia dell'aviazione americana intercettano l'aereo e lo costringono a dirigersi verso la base di Sigonella in Sicilia. Intanto da Washington tentano di rintracciare il presidente del Consiglio Bettino Craxi, ma Craxi è irreperibile. A questo punto entra in scena Michael Ledin, consulente della Casa Bianca, un falco che è stato anche collaboratore del SISMI. È lui che telefona personalmente a Craxi, così Cornelio Brandini, assistente di Craxi. Siccome lui si qualificò come Michael Ledin, Craxi non aveva molta simpatia per Michael Ledin, fece dire, oppure disse: io con Ledin non vedo per quale ragione dovrei parlare, visto che ci sono altre persone qualificate, tipo un ambasciatore Rab e altre persone ancora. Non voleva attribuire a Ledin un ruolo di portavoce del presidente Reagan. Ho parlato con l'assistente di Craxi, che insomma mi dimentico sempre il nome, Brandini, Cornelio Brandini. E lui tutta quella sera ha detto a tutti gli americani, perché l'ambasciata lo cercava disperatamente, e Brandini ha sempre detto che Craxi non c'era. Allora io, parlando con Brandini, ho detto: senti, sono io, insomma, se tu mi stai dicendo che Craxi non c'è, mentre invece lui sta nella stanza accanto a te, tu ti troverai la tua fotografia in prima pagina di tutti i giornali del mondo. In quel momento me l'ha passato. Tramite Ledin, la Casa Bianca chiede a Craxi il permesso di far atterrare l'aereo a Sigonella. Craxi concede il permesso, ma subito dopo contatta le autorità militari. L'aereo egiziano deve essere protetto a tutti i costi e i passeggeri devono essere sotto custodia delle autorità italiane. Così Ercolano Annichiarico, comandante della base militare di Sigonella. Appena l'aeroplano è atterrato, abbiamo messo dei mezzi davanti e dietro l'aeroplano e l'abbiamo preso e portato nell'area dove operava l'aeronautica. Questo, diciamo, che ha un po' scombussolato, ritengo, quelli che erano stati i piani degli americani, perché loro pensavano di far atterrare l'aeroplano, portarlo dalla loro parte, e lì noi non avremmo più potuto metter naso, perché se lo sarebbero preso loro. Sulla pista di Sigonella, i militari della VAM, la vigilanza dell'aeronautica, si dispongono in circolo intorno all'aereo egiziano. Ma appena sbarcati dai loro aerei, i militari americani circondano a loro volta il cordone di sicurezza italiano. Passano pochi minuti e arriva anche una colonna di automezzi dei carabinieri, i quali, armi in pugno, circondano gli americani. Eravamo viso a viso con i nostri ragazzi VAM, i carabinieri e quelli della Delta Force. E la tensione c'era. Tra Italia e Stati Uniti si profila a questo punto una crisi senza precedenti. Qui a Radio 24 stiamo raccontando la storia del sequestro della nave Achille Lauro. I terroristi catturati sono dirottati alla base americana di Sigonella in Sicilia. L'Italia e il governo guidato da Bettino Craxi nel 1985 stanno per giocare la loro partita nello scacchiere del Mediterraneo. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con la storia del sequestro dell'Achille Lauro. Siamo nell'ottobre dell'85. Dopo la mediazione della diplomazia internazionale, i terroristi sono dirottati nella base militare americana di Sigonella. Sta per iniziare il braccio di ferro tra il governo italiano e gli Stati Uniti di Ronald Reagan. Il generale Steiner, capo della Delta Force, insiste. Deve prendere assolutamente in consegna i passeggeri del Boeing. Quelli sono gli ordini che ha. Ma gli italiani rispondono e rispondono a muso duro. A questo punto gli americani giocano il tutto per tutto. Reagan telefona a Craxi, gli chiede di consegnare sia i dirottatori che i negoziatori. Sono le 3 di notte di venerdì 11 ottobre. A fare l'interprete tra Craxi e Reagan è ancora Michael Ledin. Reagan ha detto: noi adesso manderemo questo mandato di cattura e dunque ti prego di far mettere tutti quanti in galera. E Craxi ha detto: ma dobbiamo mettere tutti e quattro in galera, non possiamo mettere due in galera e due sotto sorveglianza. E Reagan ha detto: ma perché no? Perché Reagan, contrariamente alla sua immagine, era, insomma, troppo buono in queste cose. E io l'ho tradotto dicendo: no, assolutamente, tutti e quattro in galera. E Craxi ha detto: va bene, mettiamo tutti in galera. Cornelio Brandini. Craxi era già prevenuto nei confronti di Ledin. Non sapeva che Ledin era l'interprete, manipolatore, ma era prevenuto, assai prevenuto. Quando io incontrai per la prima volta Ledin in albergo, tanti anni prima, Craxi mi disse appunto alcune cose che misero in piena luce quello che faceva Ledin. Se una persona come Ledin diventa l'interlocutore o colui il quale traduce, e traduce liberamente per conto proprio, vuol dire che qualcosa, o nei servizi della CIA o in altre cose, stava accadendo. Successivamente, nel corso della notte, il presidente Reagan mi ha nuovamente chiesto, mi ha esposto il desiderio del governo degli Stati Uniti di poter trasportare negli Stati Uniti il gruppo dei terroristi per sottoporli alla giustizia americana. Io a mia volta ho fatto presente che i reati erano stati commessi in territorio italiano e che quindi la giurisdizione apparteneva all'Italia. Su questo il Presidente degli Stati Uniti ha convenuto, ma ha preannunciato però una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti dei quattro terroristi. Quella tra Craxi e Reagan resterà comunque una telefonata storica, la prima volta in cui l'Italia ha detto no agli Stati Uniti. Sigonella, venerdì 11 ottobre 1985, ore 4 del mattino. La Delta Force si ritira e lascia la base di Sigonella. Il generale Steiner, tuttavia, resta alla base per accertarsi che i terroristi vengano effettivamente arrestati dagli italiani. A bordo del Boeing, però, rimane Abdullah Bash, che gli americani considerano come il mandante dell'operazione Achille Lauro. Ancora il generale Annichiarico. L'ambasciatore Badini mi ha chiamato dicendomi che lui voleva parlare con Abdullah Bash. Abbiamo messo il telefono sulla scaletta dell'aeroplano. Abdullah Bash, quando si è affacciato all'aeroplano per rispondere al telefono di Badini, ha visto che intorno c'era ancora qualche americano, tra i quali il generale Steiner, ha fatto dietro front e se ne è ritornato all'aeroplano. Dice: io non parlo con nessuno. Craxi a questo punto invia a Sigonella il suo consigliere diplomatico Badini, il capo del SISMI Martini e l'incaricato d'affari dell'OLPA Roma Al-Hussein. Lì abbiamo visto e incontrato gli ufficiali americani. C'è stata, l'aria era tesa. Gli americani insistevano che non fanno partire l'aereo, che vogliono entrare nell'aereo a prendere Abdullah Bash, perché questo è un ordine. La parte italiana, con cortesia e gentilezza, ma con molta fermezza, gli dicevano: non è possibile, questa è una decisione del governo italiano, questa riguarda la sovranità del governo italiano e dell'Italia in particolare. Gli americani in quel momento non erano né d'accordo né contenti veramente, ma la posizione italiana era ferma, indiscutibile. Poco dopo, da Palazzo Chigi, arriva la decisione di Craxi. L'aereo deve lasciare Sigonella alla volta di Roma. E siamo alle 23:10 di venerdì 11 ottobre. Il Boeing egiziano, scortato dai caccia americani e da quelli italiani, atterra a Ciampino. Poche ore dopo, a Palazzo Chigi, arriva la richiesta ufficiale da parte americana di arresto e di estradizione di Abdullah Bash. Ma alle 13 di sabato 12 ottobre l'Italia risponde con un altro no agli Stati Uniti. Roma, ore 18:30, in gran segreto e protetto dai servizi segreti italiani, Abdullah Bash si imbarca su un aereo di linea jugoslavo diretto a Belgrado. Nemer Ahmad, capo dell'OLP in Italia. E io ho sentito da lui tutta la storia, anche a livello personale, come lui ha parlato. Lui considera che lui non ha avuto nessuna responsabilità diretta sul sequestro. Al contrario, lui considerava che il suo ruolo è stato veramente salvare la vita di tutti quelli che sono stati in quella nave e salvare la nave stessa. 9 mesi dopo, nel giugno dell'86, il tribunale di Genova condannerà Abdullah Bash all'ergastolo in contumacia come mandante del dirottamento dell'Achille Lauro e dell'omicidio di Leon Klinghoffer. Nel frattempo, i rapporti tra Italia e Stati Uniti non sono mai stati così tesi. Per la verità, non pensavamo di avere una reazione così forte da parte dell'opinione pubblica americana, che si scatenò per alcuni giorni con una particolarissima violenza. L'importante è che noi dimostriamo il nostro atteggiamento. Insomma, non ci piace che questo terrorista, arciterrorista, questo grande assassino, è stato fatto scappare dall'Italia quando l'avevamo nelle nostre mani. Fu il punto più alto di popolarità di Craxi, che fu applaudito dall'intera Camera dei Deputati, esclusi i repubblicani, perché imbroccò un discorso nazional popolare, insomma. Io insistevo perché noi richiamassimo il nostro ambasciatore. per dimostrare che noi, che questa azione non ci è piaciuta affatto. Il Dipartimento di Stato ha detto no, dobbiamo proteggere Craxi, se facciamo rientrare l'ambasciatore il governo cadrà. Quando io sento tutte le polemiche che mi vengono mosse contro in Italia, dove mi mettono in crisi il governo per Sigonella e per la vicenda di Abu Abbas, io dovevo recarmi a Washington e annullai il viaggio per protesta di fronte a questo atteggiamento americano e dei loro amici e dei loro portavoce in Italia. Bene. Il 16 ottobre per protesta i ministri repubblicani lasciano il governo Craxi. Intanto però la diplomazia è già al lavoro per ricucire i rapporti tra Italia e Casa Bianca. Così Rinaldo Petrignani, ambasciatore italiano negli Stati Uniti nel 1985. Il giorno dopo mi arriva una telefonata da parte del mio amico Whitehead, che era il vice segretario di Stato ed era una persona molto ragionevole, e mi disse: che ne diresti se io facessi un salto a Roma e portassi al presidente Craxi una lettera di Reagan? Ecco, e così fu concepita la famosa lettera Dear Bettino. Beh, non bisogna dimenticarsi che dopo qualche giorno il presidente degli Stati Uniti mi scrive una lettera personale chiamandomi per nome, dicendomi: caro Bettino, non fare così, vieni qua che siamo amici. Washington, domenica 19 ottobre 1985. La lettera di Ronald Reagan a Bettino Craxi chiude formalmente la crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti. A dispetto delle divergenze, scrive Reagan, l'amicizia tra i nostri paesi e l'impegno comune contro il terrorismo non sono in discussione. Il 6 novembre, con un nuovo voto di fiducia alla Camera, si chiude anche la crisi di governo. L'epilogo, la vicenda Achille Lauro, arriverà però dalle aule di tribunale. 15 aprile 2003. Le forze speciali americane arrestano in Iraq Abu Abbas, che viveva in una villa a Baghdad protetto da Saddam Hussein. 9 marzo 2004. Abu Abbas muore in un carcere americano alle porte di Baghdad. Fonti militari americane affermano che è deceduto a seguito di un attacco cardiaco. Mix 24. Sono le 10:51 minuti 21 secondi, siamo di nuovo in linea con Mix 24. Con noi al telefono c'è il professor Giorgio Simonelli, professore di storia della televisione alla Cattolica, col quale discutiamo come tutti i giorni oramai di palinsesti televisivi alla luce della domanda: dov'era il canone? Ieri sera vi ricordo che il nostro numero verde è 800 24 00 24, il numero dell'SMS 349 238 6666. Giorgio, dov'era, professore, dov'era il canone ieri sera? Buongiorno a tutti. Ieri sera il canone era sicuramente verso tardi, dopo le 11, su Rai 3 nel programma di Bollani. Perché questo programma, di cui molto si parla, insomma, ha due grandi aspetti di servizio pubblico. Il primo è quello della divulgazione musicale, fatta però con divertimento, con ironia, e rispettando soprattutto la lezione di un grande divulgatore del servizio pubblico, che era Beniamino Placido, il quale sosteneva che per parlare in televisione bisogna parlare di oggetti. Ecco, ieri sera in tutta la prima parte del programma Bollani ha parlato di oggetti, ha parlato degli strumenti musicali, attraverso gli strumenti musicali, attraverso la visione, la concreta visione degli strumenti, ha fatto la divulgazione. Il secondo motivo, che a me sembra molto importante, è perché in questo programma, che si svolge tutto all'interno di uno studio, c'è una grande originalità e vivacità televisiva. Ci sono molti piani, molte inquadrature, molto montaggio, c'è una ricerca cromatica. C'è un gran lavoro, insomma. E soprattutto perché quando si parla di qualità e di canone e di di necessità di pagare, si pensa sempre ai contenuti, si pensa sempre che vale la pena di pagare il canone perché ci sono dei contenuti buoni. Invece io credo che si debba pagare il canone soprattutto quando c'è una buona qualità visiva, quando c'è una ricerca di bella televisione. Ecco, vale la pena di pagare quando le cose sono belle. Ecco, a proposito di canone, noi abbiamo ricevuto un SMS, Emanuele Dutto da Cuneo ci chiede espressamente di parlare proprio dell'evasione del canone. Dice: non ne parlate perché per evitare che quelli che lo pagano smettano anche di pagarlo. Ecco, io volevo dire no, il canone è una tassa, è come tutte le tasse, va pagata, se no si è evasori fiscali, abbiamo sentito Befera all'inizio della trasmissione, però naturalmente il canone è una tassa molto evasa, circa il 30% degli italiani evade il canone e questo non è un buon segno e potrebbe essere anche un segno in qualche modo di una protesta, è possibile? C'è insomma nel paese insomma una tradizione per cui tutte le tasse sono meglio non pagarle, sempre impopolari, chi certo paga le tasse è un po' fesso. Io credo che invece insomma no, il canone va pagato, bisogna ribadirlo con chiarezza, poi va anche meritato in tutti, però diciamo prima di tutto che in tutti i paesi occidentali europei di una certa tradizione democratica insomma esiste il canone, quindi non è che sia una stranezza, una stravaganza, il balzello tipico dell'Italia, no, piena di balzelli. È una cosa che c'è in tutti i paesi d'Europa, quindi sarebbe singolare il contrario e credo che l'atteggiamento di rifiuto di pagare il canone sia un atteggiamento poco europeo, ecco, poco. In Europa viene pagato e viene pagato direttamente, non è una scelta, ma in quasi tutte le forme, in quasi tutti i paesi europei la forma di pagamento è una forma che è diretta dentro o la bolletta della luce o del telefono o forme da cui non si può prescindere. Ecco, ma abbiamo 20 secondi, una valutazione sui palinsesti da questo punto di vista, ma, per chiudere. Guarda, io stavo osservando una cosa, in questa settimana, la settimana che è cominciata ieri, c'è un interessante palinsesto orizzontale. 10 secondi. Di Rai 1, da ieri sera fino a giovedì sera, Rai 1 ha sempre fiction nazionali in prima serata. Mi sembra che sia una scelta, poi sulla qualità discuteremo. Grazie, ne parleremo domani, grazie.